Allora, abbiamo qualcosa di bello oggi da condividere, che è questo passo, che non so se voi avete mai avuto il riassunto dei Promessi Sposi, il Bignami. Ok, questi versi sono il Bignami di Filippesi, quindi è tutto riassunto qua. Lo leggiamo insieme, dai. Filippesi 3, 12, 16. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quelli. Cioè, nel senso, non avete capito niente, poi ve lo farà capire Dio. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Come dicevo, questo passaggio è veramente fondamentale, un po' nel cuore di questo libro di Filippesi, perché quando lo leggiamo qui troviamo un po' tutte quelle risposte che abbiamo visto durante tutti questi passaggi, no? Che abbiamo analizzato dei vari capitoli, dal primo fino a qui. Quando abbiamo parlato della sofferenza, soffri, guarda a Cristo. Vai verso Cristo, no? È questo che sta dicendo Paolo. Se tu sei nella gioia o cerchi la gioia, guarda Cristo. Se no, se hai problemi con la tua identità come credente, no? Guarda Cristo. Qualunque situazione che abbiamo analizzato finora nel libro, è in questo verso c'è proprio questa freccia indicativa enorme, luminosa, che va verso Gesù. Ed è bellissimo vedere come Paolo in questo ha voluto dire: vabbè, io ve l'ho detto tutte queste cose, ma in pratica è questo, noi dobbiamo andare verso Cristo, ma non in un'azione passiva, così, diciamo, mi alzo la mattina, vado verso Cristo, ma corro, corro. Cioè, in questo passaggio Paolo usa questa figura, no? Della corsa. La corsa è proprio un'azione, no? Un'azione non passiva, ma è proprio dettata da una decisione. Io vorrei fare solo una premessa su questo, perché dei tanti temi che mi potevano affidare mi danno i temi sportivi, perché io non c'entro niente con lo sport, no? Quindi punto controverso ancora di più la corsa, perché lo sport nella Bibbia non esiste. È vero, perché non troviamo da nessuna parte altri esempi, se non quelli di Paolo, o mi sbaglio, no? I garanti della dottrina, Gianluca, Noemi, no, non ci sono. No, anzi, Gesù, per esempio, non è uno che corre, è uno che cammina. L'avete visto mai correre Gesù? No. Anzi, è successo, anche camminare sull'acqua può essere uno sport interessante da analizzare, però mi usci d'acqua, tipo. C'è questo passaggio di Gesù che sta andando verso Betania, no? E c'è Lazzaro che sta morendo. Allora le sorelle mandano qualcuno da Gesù e gli dicono: Gesù, per favore, vieni presto, corri, che Lazzaro sta morendo. Cioè, sì, aspetta, piano piano. Cioè, non si dà fretta, quindi cammina verso Betania. Quando arriva a Betania è morto, però per non fare brutta figura lo risuscita. Quindi, so. Come vedete, non c'è per forza questa aspirazione allo sforzo della corpo, però Paolo lo sottolinea forse come allora, mettiamola per bene, è una metafora, ok? Va bene, poi io non voglio togliere niente a chi pratica dello sport, peggio per voi. Non è biblico. Che cosa succede qui? Paolo sta dicendo: guarda che qua devi metterci del tuo, non puoi lasciare che la tua vita ti scorra addosso. Questo verso no, non stiamo neanche sottolineando il fatto che quando Paolo dice corro verso Cristo, non come, cioè nel senso non sto pensando a quello che potrebbe essere, non sono perfetto, no? Qui non sta parlando però del fatto che lui non è perfetto nella grazia, non è perfetto nel percorso. Quindi è molto importante sottolineare, questo è un punto fondamentale di questo verso, che qui non stiamo parlando se Paolo era salvato o meno, assolutamente no. Qui parliamo di una grazia completa e piena della vita di Paolo, della sua chiamata, della sua salvezza in Cristo. Qui non possiamo discutere di questo, è inequivocabile. Non possiamo metterlo in dubbio. Quindi, per favore, quando ci riferiamo a questo e diciamo neanche Paolo era perfetto, no, in Paolo era compiuta la grazia, come è compiuta in te. Ok? Non discutere di questo, perché su questo verso giustifichiamo tante cose che non sono chiare della nostra identità in Cristo. Non la possiamo mettere in dubbio. Veramente, qui io non voglio passare oltre se non chiariamo questa cosa. È molto importante. È per grazia che siete stati salvati. E questo non è per merito vostro, ma è per Dio che ha provveduto per voi salvezza. Efesini 2:8. Ok? Non si scappa su questo. Quindi tante volte abbiamo questo retaggio anche un po', diciamo, filocattolico, no? Che devo fare qualcosa in più, no? Perché non va bene abbastanza, non sono bravo abbastanza. Certe volte, no? Per molto tempo della mia vita ho dovuto affrontare il fatto di dover uscire da una chiesa e dire, ma non vado bene. Ma questo è sbagliato. È assolutamente sbagliato. Dobbiamo sapere che oggi se tu sei qui, tu vai bene, perché Gesù ti ha salvato. La sua grazia è perfetta in te. Non uscire da qui se non sai bene bene che Gesù ha provveduto tutto quello che poteva provvedere per te, per la tua salvezza e la tua vita eterna. Ok? Sì? C'è un amen? Grazie, siete ancora con me? Sei salvato, sei libero. In questo c'è una piena consapevolezza di Paolo, non c'è nessuna situazione in dubbio su questo. E quando tu sei in Cristo, tu puoi vivere questa vita nuova. Allora, di che corsa sta parlando? Di quale azione sta dicendo? Che premio è che mi manca in questo percorso? Perché dice io... Leggiamolo insieme. 13. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro. Quindi di che premio sta parlando? Deve prendere questo premio riguardo Cristo? Certamente un premio poter riconoscere di poter incontrare Gesù. Questo è ovvio, è una cosa importante. Però c'è anche questo aspetto biblico importante che riguarda i premi. I premi non sono una cosa di cui non parliamo tanto spesso, però i premi ci riguardano e non è solo il compimento del nostro percorso di credenti quando noi andiamo e incontriamo Gesù. Lo vedremo faccia a faccia, vivremo per l'eternità con Lui, bellissimo. E va bene, e questo è quello che riguarda il nostro stato come credenti normalmente quando noi conosciamo Gesù, e va bene così. Ma c'è di più. Paolo ci sta dicendo che c'è di più. Ora, lo scopo di un uomo non è esistere, ma vivere. Non c'è scritto nella Bibbia, James Bond, ok. È così, non possiamo considerare di vivere la vita del credente solo perché Dio ci ha salvati e finisce lì. No, c'è qualcosa in più che ha a che fare con le nostre decisioni, con le nostre azioni, con quello che noi possiamo fare, influenzare con la nostra vita. Di questo sta parlando Paolo e probabilmente quando lui si riferisce a questo fatto, questa metafora sportiva della corsa, lui sta e dice corro per prendere un premio per ottenere il premio della celeste vocazione in Dio. Ora, questa frase noi spesso la usiamo, la celeste vocazione che abbiamo in Dio, bellissimo, però se completiamo la metafora sportiva che Paolo sta utilizzando qui, per gli sportivi del tempo era molto importante concludere bene la loro carriera con... se erano stati degli sportivi in gamba, avevano ottenuto delle onorificenze importanti, alla fine del loro percorso, quando ormai insomma non riuscivano più a correre, era importante da parte delle autorità riconoscere un premio a questi sportivi meritevoli. Che cosa succedeva? Venivano chiamati a ricoprire delle cariche di autorità per concludere il loro percorso di vita, perché erano stati così bravi nel loro esercizio, anche proprio pratico, che per onorarli venivano chiamati a ricoprire delle cariche sportive. Quindi il premio che Paolo si aspetta è che farà qualcosa di importante con Dio nell'eternità. È strano, io non so come concretizzarlo a parole perché non abbiamo altri riferimenti, però Paolo sta parlando di questi premi, di qualcosa che riguarda il compimento di tutto un cammino, di tutta la vita del credente, il suo come esempio. Sì? Nella Bibbia si parla di premi. Lo sapete? Allora, ci sono dei premi che vi aspettano. Questa è una cosa interessante. Quando non se ne parla tantissimo, però ci sono i premi che la Bibbia raffigura anche qui come metafore alle corone, le raffigura come corone. Vi piacciono le corone? Era una cosa importante per il tempo, perché chi otteneva una corona in realtà era in autorità, era una figura importante nel servizio pubblico. Magari era un re, un principe, no? L'avete immaginato già nella vostra mente. Allora, la Bibbia ci parla di corone, e quindi questi sono premi che dobbiamo guardare nel nostro percorso. Non dobbiamo solamente essere certi che il nostro percorso riguardi la vita eterna, e lì ci sta, va bene, siamo salvati, non si scappa da lì, però c'è di più. Per esempio, c'è la corona della vita che Giacomo cita, e la riceveranno, come sappiamo, coloro che sostengono la prova. E Giacomo cita questo verso: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Quindi qui è la tua costanza, le tue scelte, il tuo resistere le difficoltà della vita che ti permetteranno di ricevere questo premio. E ragazzi, vi posso dire, ragazzi, fratelli, sorelle, vi posso dire, conosco molti di voi e molte delle sfide che avete avuto nella vostra vita, e vi assicuro che in questo posto ci sono persone che riceveranno questa corona. Sì? Credetemi. Vi posso fare i nomi e cognomi, è solo per quello che vedo io, e il Signore, che vede molto di più, saprà ricompensare il vostro percorso, la vostra sofferenza, le vostre scelte. La corona della gloria, ce ne parla Pietro, questa esclusiva del pastore, questa è per te, è tutta per te. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Dice, vabbè, solo al pastore, anche tu sei pastore di tante persone che guidi e influenzi. Ricordatelo, questo è per te. Questo è per te. E un'ultima che vi cito, poi probabilmente forse ce ne saranno altri, ma non ho trovato altri esempi su questo, la corona della giustizia. ed è per coloro che hanno amato la venuta di Gesù. Ho combattuto il buon combattimento. Ragazzi, questo è un po' legato a quello che abbiamo appena letto. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Se la tua speranza è vedere Gesù il prima possibile, la tua speranza è che questo mondo che è corrotto ha bisogno di giustizia, la giustizia è in Cristo, la sua apparizione amata ti consegnerà questa corona. Ma vi vedo poco entusiasti di questi premi. Volete il premio da 20.000 euro? Cioè, vi serve lo scatolone che si apre? No, perché questo non so, a me mi entusiasma, quindi spero che... Forse non ve l'aspettavate. E neanch'io, perché in realtà passiamo molto della nostra vita, delle nostre giornate, a non considerare questo. E io spero che questo vi possa incoraggiare a considerare a come dare uno scopo anche a quello che viviamo, che facciamo, quello che scegliamo, perché questo è il modo di correre, questo è il modo in cui noi poniamo le nostre gambe in azione per non solo camminare, non solo per stare, ma per vivere. Dobbiamo scegliere di vivere in Cristo. Vivere in Cristo necessita necessariamente di un'azione. Non può essere una medaglietta che ti puoi mettere addosso e ti dice che sei salvato. Non è solo quello, è troppo poco. È troppo poco. Quando parliamo di tutte queste azioni, se abbiamo focalizzato bene quelli che sono i premi, alla fine come facciamo ad ottenerli in pratica? Allora, adesso vi tocca lo spiegone di matematica come l'altra volta, e quindi andiamo col grafico numero uno. Il grafico numero uno vi rappresenta quello che è il percorso, che è la crescita del credente, perché è questo di cui stiamo parlando. Non possiamo vivere in un'azione se non come risultato ottenere una crescita. E la crescita si ottiene nel tempo, sì, con l'esercizio della fede. C'è il grafico, sì. Okay. E quindi più passa il tempo, più esercitiamo la nostra fede, no? Aumenta la nostra fede e la nostra crescita ha questa progressione, come si dice, geometrica, progressiva, no? Una esponenziale. Mamma mia, pastore, oltre alla corona della gloria ti spetta la corona in matematica, grazie. Che bello, no? Bellissimo. È una crescita esponenziale. E io e tutti vorremmo questo tipo di crescita nel nostro percorso come credenti, no? Più passa il tempo, più esercitiamo la fede, più noi cresciamo. In realtà la nostra vita come credenti è più il grafico numero due. Vediamo il grafico. Qualcuno si riconosce in questo? Allora, Paolo per primo si riconosce in questo. Perché vedete tutti questi angoli che ci sono? Sono punti di rottura. Ditelo con me, così lo memorizziamo. Punti di rottura. Forza ragazzi, ci serve un po' di caffè stamattina. Tutti quei momenti della vita che ci hanno portato a qualcosa che si è spezzato e che ha portato il nostro percorso, invece di crescere, a diminuire. Ma ci sono poi nuovi punti di rottura che ci portano a crescere di nuovo. E quelli sono i punti dove Dio interviene, meno male, ma dove anche noi scegliamo di correre. Perché questo è il nostro percorso. Volevo lasciarvi con tre suggerimenti riguardo alla crescita. È un argomento così vasto che potremmo perderci negli esempi e nelle idee di quello che riguarda questo argomento. Però voglio almeno lasciarvi tre suggerimenti. Uno è dimentica, l'altro è influenza. E l'ultimo è modifica o cambia. Dimentica. Quando parliamo di dimenticare, ci riferiamo proprio al concetto del verso di Filippesi che Paolo ci ha spiegato all'inizio. Ora, si corre così, dimenticando le cose che stanno dietro. È proprio lasciare andare, let it go, come Frozen. Conoscete Elsa? Sì, ah, fenomeno. È cultura pop, quindi insomma non c'è. Let it go, lascia andare, devi proprio lasciare andare. Se ci dobbiamo riferire proprio all'esempio della metafora di Paolo che fa della corsa, quando facevano queste gare non le potevano trasmettere in TV, non perché non ci fosse, ma perché era proibito, cioè era dai 18 anni in su, perché gli atleti correvano senza vestiti, cioè non volevano niente che li trattenesse, non volevano niente che potesse frenare il loro percorso. E vado oltre l'idea di come gli atleti correvano, perché l'abbiamo visto già nelle due domeniche fa molto bene, anche Anthony ci ha spiegato guardando dritto, cioè era un'azione molto chiara, molto determinata, tecnica. Quindi che cosa succedeva? Lasciavano andare le cose che stavano dietro, lasciavano andare tutto, anche tutto quello che avevano addosso, perché avevano uno scopo ben preciso che era raggiungere la meta. Ci sono tantissime cose che devi lasciare andare e questo non ha a che fare con la tua salvezza, ha a che fare col tuo percorso. È chiaro? Sì, questo è molto importante, non voglio lasciare fraintendimenti. Lasciare andare, cosa devi lasciare andare? Ci sono peccati, ci sono circostanze, ci sono relazioni. Vedete quanti punti di rottura abbiamo nel grafico, no? Sono tutte quelle cose che ci hanno spezzato, ci hanno rotto. Sono cose che rompono, anche persone che rompono. Però vabbè, metteteci chi volete voi. Ci sono situazioni che devi lasciare andare. Parlo di una cosa che mi riguarda, quindi di tanti anni fa. Riguarda la relazione con una persona, non è di questa chiesa, quindi non vi fate film, ok? C'era un mio caro amico, c'è ancora, ed è successa una cosa molto brutta, che mi ha tradito, ha detto delle cose molto brutte su di me. A voi è mai capitato? Sì? Ah, allora, ce ne sono. E quindi ovviamente la prima reazione è stata confrontarlo e dirgli scusami ma perché hai detto questo? Ovviamente ha negato, non ha messo niente. Però ha detto credimi, io non l'ho fatto. E sono passate diverse settimane e quindi la cosa è stata molto dolorosa per me. Non era importante, però era dolorosa per me e capita. Quindi ho dovuto a un certo punto veramente pregare con sincerità davanti a Dio, perché questa cosa a me non mi lasciava sereno, cioè potevamo andare su due percorsi diversi, continuare le nostre vite e va bene, però in realtà a me quella cosa mi aveva spezzato e buttato giù, aveva interrotto il mio percorso di crescita. Cosa ho dovuto fare su quello? Veramente dover presentarlo davanti a Dio e scegliere di credere e di perdonare. Non è stato semplice, non è stato facile, ma vi assicuro che è stato immediato, istantaneo e miracoloso. È stata una delle esperienze più belle di crescita della mia vita, perché ha cambiato proprio il mio modo di vedere anche Dio quando interviene sulle cose così delle relazioni, no? Che sono cose che ci feriscono, ci lasciano i segni. Mamma mia, è stato bellissimo, perché poi sono andato da quella persona, cioè non era tanto importante per lui, ma per me, ma io ti ho perdonato, cioè volevo proprio dirglielo. Sì, quello che fa, non lo so se è vero, non mi interessa, io ti ho perdonato, che è stato bellissimo, ed è ricominciata la nostra relazione, è stato molto bello. E io credo che ci sono tante cose, che, come questo esempio, che vanno spezzate e lasciate indietro per permettere la nostra nuova crescita. Abbiamo bisogno di queste esperienze per crescere. Non sono sicuro che nessuno vuole passare da questo. Metteteci quello che volete, esperienze di fallimento, di malattia. Ci sono tanti punti di rottura, ma sono punti che ci servono per crescere, per correre. Davanti a quei momenti devi scegliere di continuare a correre. Ripeto, davanti a quei momenti devi scegliere di continuare a correre. Vuoi correre? C'è da farsi male a volte, però bisogna correre. Un altro consiglio ed è quello di influenza. Influenza è molto, anche qui ci si può parlare di guida, di leadership, di tantissimi concetti che probabilmente voi conoscete anche meglio di me se avete fatto, non so, la scuola di Maxwell, no? È un grande formatore che riguarda leadership. Io un po' sono d'accordo e spesso però devo confrontarle con le mie esperienze personali. Trovo che la cosa più bella per imparare come si influenza qualcosa o qualcuno per cambiare quei punti di rottura, perché ci sono cose che non possiamo cambiare e altre invece che possiamo influenzare, ok? Per questo parlo di questo argomento. Influenzare è un modo per cambiare le circostanze e permettere la nostra crescita. Io sono papà da pochi anni, nonostante i miei figli siano anche belli cresciuti, però mi trovo spesso in difficoltà di chiedere di fare loro delle cose. Quindi io chiedo, non so, fai questo, ci sono i rotoli di polvere nel deserto, proprio che gira. Cioè, ho ascoltato un podcast che mi è piaciuto molto e mi ha insegnato questo principio: se vuoi che i tuoi figli ti ascoltano, devi dare loro l'esempio. Come si fa? Allora, tu puoi urlare mezz'ora, specialmente con il più piccolo dei due, e dire vai a lavare i denti. Cioè, non lo so perché non si vuole lavare i denti, però è una cosa che tipo ti strappati le unghie, no? È una cosa dolorosa per lui, non so perché. Però non lo fa volentieri. Alla fine poi, se tu stai lì a convincerlo, allora lui lo fa. Però la cosa più esaltante per me è stato che un giorno ho detto: senti, vieni con me a lavare i denti. Sì, subito, ci siamo messi a lavare i denti. Chi se le lavava meglio, no? Questo è un po' il principio. Influenza con l'esempio. Se tu vuoi essere influente e continuare a crescere nel tuo percorso con Dio, l'influenza è un ruolo chiave e ti permetterà di cambiare delle cose. Ci sono cose che non si cambiano. Non lo so quante cose nella tua vita hanno avuto uno stop, non si possono cambiare, ma altre le puoi influenzare e le influenzi con le tue scelte, col tuo esempio. Passato gli ultimi 17 anni sposato con Sara, ieri era il nostro anniversario, no? Grazie, ci siamo ancora. Una delle cose che più difficili per me era confrontarci dall'inizio del matrimonio su che cosa fosse importante, e per me la puntualità è un valore, per mia moglie no, è una perdita di tempo. E allora posso dire una cosa, cioè sono passati tanti anni, però mia moglie è diventata puntuale. E questo non so se è stato un esempio, forse sì. Però, ecco, non che tu abbia raggiunto già il premio, ok? Però ti protendi verso la puntualità e io lo apprezzo moltissimo. È influenza. L'ultimo punto, perché siamo in chiusura, è cambiare, modificare. Come modifichiamo il nostro percorso? Ci sono dei momenti in cui hai da fare delle decisioni difficili che non riguardano solo il passato, no? Riguardano proprio quello che ci sta davanti. E in questo proprio troviamo la perfetta sintonia con il verso di Paolo: protendendomi verso le cose che sono davanti, io corro. E voglio raccontarvi anche qui un'esperienza personale. Forse non vi sembrerà così, però io sono una persona molto introversa, fortemente introversa. E questa era una difficoltà grossa per me fin da piccolo, perché magari dovevo fare delle cose comuni, tipo anche comprare un biglietto per l'autobus. All'epoca non c'era internet, se no lo compravo solamente online, perché non riuscivo ad approcciare le persone per parlare con loro, perché mi metteva in difficoltà. Cioè, lo so che a voi potrà sembrare stupido, ma per me era proprio pesante. E questo mi ha portato a rinunciare a tante cose, anche a dover fare passi indietro, perché semplicemente non volevo avere a volte a che fare con le persone. Questo sta migliorando molto, però il punto di rottura di questo è stato un rispondere a un appello. Era una conferenza e quindi c'era un appello e chi predicava poi alla fine ha chiesto: ma tu lo vuoi dare il 100% a Gesù? Sei disposto a dare il 100% a Gesù? E dice: e che altro ti devo dare? Non lo so. Cioè, pensavo di sì, però ho detto: Signore, io sì, ti voglio dare il mio 100%. Cioè, ho fatto tante cose e se sono qui è per scegliere ancora te. Sembrava un appello così, uno di routine dove ti senti mosso emotivamente, ma non era emotivamente, lì stavo scegliendo, stavo dicendo un sì, importante. Non è passato neanche qualche giorno, forse una settimana, scusatemi, e ho ricevuto una telefonata da un gruppo che si occupava di fare dei viaggi all'estero per sostenere le popolazioni in Africa, in Etiopia. Allora, io che non riuscivo a prendere l'autobus per andare a Curato, dovevo andare in Etiopia. E avevo detto sì. Ed è stato così. Ho dovuto sfidare totalmente me stesso, prendere l'aereo per la prima volta, andare in un posto che non conoscevo, rimanere sconvolto poi da una cultura e un posto, una popolazione che ama profondamente Gesù, che è stata anche quello un punto di grande rottura per me. E questo ha segnato così tanto la mia vita, voglio dire, sono andato, sono partito e sono tornato, vivo e vegeto. Da confrontare questa esperienza per esempio con il mio amico Gianluca, che ha avuto un'esperienza molto simile in Kazakistan, Uzbekistan, scusami. E quando abbiamo detto qua, ma questa è un'esperienza che dovrebbero fare tutti i ragazzi per imparare come possono condividere Gesù con le persone, anche in posti dove non c'è mai stato nessuno. E che cosa è successo? Che poi di là è nato i 6-8, che oggi chiamiamo Frontiers. Ma che cosa straordinaria! Solo perché c'è stato quel punto di rottura così forte da dover dire: tu non vuoi prendere l'autobus, io ti mando dall'altra parte del mondo. E dire sì a questo non è stato facile, ma ha permesso per me una crescita e probabilmente è stata un'influenza che anche per altre persone. Io non lo so neanche dove è andato a finire il frutto di quel sì. E questo non è perché riguarda me, ma perché riguarda te, riguarda noi tutti, i nostri sì e le nostre decisioni nel dire: io mi alzo ogni mattina e corro non perché devo andarmi ad allenare, ma perché ho uno scopo preciso di raggiungere un premio che mi spetta, perché Dio me l'ha promesso e io voglio andare in quella direzione e scegliere con difficoltà ogni giorno di fare questo, mettendomi in una posizione scomoda, perché non è naturale correre e devi sforzarti di prendere decisioni su questo, di muovere la tua vita verso le cose che Dio ha preparato per te, perché questo è già per te, sta già pronto, devi solo dire sì. E Paolo ha detto sì, tanti, tanti sì. E oggi se siamo qui è perché lui ha detto sì. Non ci sarebbe una chiesa ai Romani se non ci fosse stato lui, e non ci saremmo neanche noi. Quel suo sì ha cambiato la storia del mondo. Ora, questo è il nostro approccio e la nostra chiamata, questa chiamata che vogliamo avere tutti alla fine del nostro percorso. Vogliamo tutti che Gesù ci dica: vieni, prendi il tuo posto, perché hai fatto un buon lavoro, perché hai scelto nella sofferenza, perché hai scelto nell'ubbidienza, perché hai scelto soffrendo a volte, no? Dicendo i tuoi sì. Vogliamo alzarci in piedi? Vi chiedo scusa per aver preso più tempo del dovuto, spero che questo abbia aperto il vostro cuore, anche una prospettiva nuova di quello che sono anche i concetti di questi versi, che forse conosciamo bene, bene, bene, bene, bene, bene, però forse non li abbiamo visti in un'idea pratica e chiara, che va oltre la poesia del verso. Possiamo chiudere i nostri occhi. È un passo bellissimo, un passo così importante, così fondamentale, ma qual è il nostro, la nostra decisione a riguardo? Qual è il nostro passo verso l'eternità, verso un'altra meta da raggiungere? Non so quante sfide ci saranno ancora per te, quali sì dovrei dire, però non importa quanti punti di rottura ci saranno, corri, non ti stancare. La tua vita è così importante da essere stata voluta da Dio per uno scopo e non solo per salvarti. E la tua vita è così importante perché modificherà la storia di tante persone. Per favore, non sottovalutare i tuoi sì, non sottovalutare le tue decisioni, non sottovalutare le tue relazioni. Corri, corri. Signore, ti prego per ciascuno dei miei fratelli qui, per me stesso, per tutti noi che siamo qui, Signore, ti prego davvero che tu possa darci una visione completa di quella che è la nostra vita, non quello che succederà domani, ma cosa riguarda l'eternità. Signore, aiutaci a guardare come Paolo guardava, perché ha visto oltre se stesso, ha visto oltre il momento, ha visto oltre la storia. Ti prego di darci la stessa attitudine, Signore, di non solo guardare quello che sta succedendo o quello che stiamo vivendo. Signore, facci risalire, dacci grazia, dacci la costanza su questo, la chiediamo a te se ci manca, ma sappiamo che abbiamo bisogno di fare delle decisioni. Non voglio mancare, Signore, di fare le mie decisioni come insieme ai miei fratelli e dirti sì, Signore, dal punto in cui siamo arrivati, dai punti di rottura dove siamo arrivati, noi vogliamo continuare a correre. Noi vogliamo continuare ad andare verso la meta che ci spetta, verso il premio eterno, verso te, Signore. Qual è il premio più grande che potremmo avere se non te, Gesù? Davvero grazie, perché non vediamo l'ora di poter vivere tutto questo per l'eternità. Gli occhi di Paolo per tutto il libro sono verso l'eternità. Dacci gli stessi occhi, Signore, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.